Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. A 180 giorni dal suo sequestro, a 1200 miglia dalle coste somale, la pescatrice italiana Savina Kajalin con i suoi 22 membri dell'equipaggio, 5 italiani e 17 indiani, è ancora nelle mani dei pirati Soma. Mangiamo un piatto di riso bollito al giorno e sporadicamente un po' di legumi, cosicché siamo affamati e denutriti. Abbiamo perso in media dai 10 ai 20 kg di peso corporeo ciascuno. Rinnoviamo la nostra richiesta di aiuto a tutto il popolo italiano e alle forze politiche. Vi preghiamo di non lasciarci soli, di non abbandonarci. La voce che avete sentito è quella del comandante Lubrano Lavadera. Siamo al largo della Somalia. La voce è stata registrata e messa online dal sito del Corriere della Sera dopo che anche il Mattino di Napoli aveva diffuso una foto degli italiani sequestrati dai pirati somali. Siamo al largo della Somalia. Due navi con italiani a bordo sono state sequestrate da bande di bucanieri, la Savina Kajalin e la Rosalia D'Amato. La prima, appunto, come sentivate, 17 indiani e 5 italiani a bordo. La seconda con due nostri connazionali. Da mesi sono alle mani dei pirati, vedremo come stanno andando le trattative per il rilascio, ma non sono gli unici italiani nelle mani dei rapitori all'estero in questo momento, sempre in Africa. La fiorentina Sandra Mariani è detenuta da Al-Qaeda nel Maghreb dallo scorso febbraio e ancora Franco Lamolinare è stato sequestrato insieme con un cittadino britannico nel nord della Nigeria il 12 marzo scorso. In un video i due ostaggi affermano di essere stati rapiti da Al-Qaeda nel Maghreb. Nella puntata di oggi di Nessun Luogo è Lontano cercheremo di capire meglio che cos'è Al-Qaeda nel Maghreb, che cosa nasconde, quanti membri conta, che potenza di fuoco può vantare. Stiamo parlando di un'industria del rapimento, un business del sequestro, sequestri che avvengono in zone con stati fragili, che sono poco controllati, con poche risorse di polizia, e a farne le spese sono lavoratori civili di varie nazionalità, ma anche italiani, e il fatturato è sicuramente miliardario. Questo è l'oggetto della puntata di oggi di Nessun Luogo Lontano. Buona giornata, gentili ascoltatori. Con me in redazione quest'oggi a confezionare il programma c'è Riccardo Poli, alla parte tecnica c'è Mauro De Angeli. Per interagire con noi 349-238-6666 se avete domande, commenti o suggerimenti condensati in 160 caratteri. Poi ci trovate alla mail nessunluogo@radio24.it e alla pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano, che io tengo qua sempre d'occhio. Intanto do il mio buongiorno anche ad Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri. Buongiorno a voi. Buongiorno, allora c'è tanta carne al fuoco, io vorrei intanto un suo commento sul fatto che in queste ore il caccia torpediniere italiano all'Andrea Doria si sta dirigendo verso la zona somala dove appunto sono stati sequestrati i nostri connazionali, e l'Andrea Doria cercherà di avere più informazioni. Che cosa ci può dire allo stato attuale delle cose, sottosegretario? Ma io farei, per aiutare a capire meglio questo fenomeno che voi avete così giustamente definito Al-Qaeda nel Maghreb, discorso un po' più complesso. La presenza di radicalismo islamico e di gruppi terroristi che va grosso modo dalla Mauritania, scorre sotto il sud dell'Algeria, il sud della Libia, arriva fino al Sudan e comprende ovviamente Niger, Chad, Repubblica Centrafricana e il deserto del Sahel, quello della savana, dove ci sono vari fenomeni, prendendo i vostri rapitori. Sottosegretario, la linea è piuttosto disturbata, per cui fatichiamo ad ascoltarla come si dovrebbe, per cui cerchiamo di richiamarla e vediamo di ristabilire una connessione un po' migliore. Allora, stavamo cercando di fare un quadro di quella che è la situazione di alcuni nostri connazionali, però io appunto volevo partire dalla Somalia, perché nei mari appunto del Corno d'Africa, tra Yemen e Somalia, vi sono queste due petroliere, questi due cargo, la Savina Kajalin e la Rosalia D'Amato, che sono nelle mani dei pirati somali da alcuni mesi. Avete sentito la drammatica testimonianza, il drammatico appello del comandante che lamenta condizioni assolutamente proibitive. E vi dicevo, in queste ore il cacciatorpediniere della Marina italiana, l'Andrea Doria, si sta dirigendo verso la zona per avere più informazioni. Io pregherei il sottosegretario, che è di nuovo in linea con noi, un primo commento sull'aspetto somalo di questa vicenda. Quindi, che cosa ci può dire allo stato attuale delle trattative che sono in corso per liberare i marinai della Savina Caelin e della Rosalia D'Amato nelle acque somale? Poi parliamo del Qaeda nel Maghreb. Allora, dicevo, qua il problema è molto complicato. Siamo di fronte a un fenomeno che al momento ancora potremmo definire di criminalità organizzata. I collegamenti con Al-Qaeda, quelli che risultano, sono, come dire, di effetto indiretto, cioè la pirateria opera sul mare, ma ha poi bisogno di appoggi a terra, nelle zone dove ci sono i porti, dove si appoggiano questi pirati o questi criminali, come io credo sia meglio definirli, sono in gran parte controllato dalle truppe di Al-Shabaab, quindi da formazione vicina ad Al-Qaeda, che in cambio di, come dire, di sicurezza, di controllo della costa, si fanno pagare una percentuale. Quindi direi che il fenomeno vero è di criminalità organizzata, riguarda ormai non più solo la costa somala. La Caelin è stata presa a 500 miglia dall'India e 800 miglia dalla Somalia, quindi più vicina quasi all'India che non alla Somalia. Operano in mare attraverso navi madre, da cui scendono questi barchini velocissimi. Le navi sono ovviamente a quel punto vittime, perché come nel caso della Caelin portano 80.000 tonnellate di petrolio, quindi hanno anche un carico che facilmente può diventare, come dire, una bomba esplosiva, o quantomeno una qualcosa che certamente mette in pericolo le vite dei marinai, per cui l'assalto e l'abbordaggio avviene con una certa facilità, mettendo tra virgolette la definizione. Nel caso specifico, voi sapete, la novità più grossa riguarda una decisione assunta dal Parlamento su indicazione del governo, per cui sulle navi italiane che passeranno nella zona del Golfo di Aden e del mare di Somalia verso l'Oceano Indiano potranno essere presi a bordo o dei militari delle truppe speciali italiane o contractor, cioè militari, ex militari normalmente di aziende private, che possano garantire un controllo e quantomeno una prima difesa della nave, sì, che è possibile con certe tecnologie e certe metodologie. Questo per rafforzare, come dire, la sicurezza delle navi. Tornando alle due, sono stati presi contatti direttamente dagli armatori, il governo italiano prima con l'incrociatore Zeffiro, controllato nel mese di marzo, come dire, la nave dopo che era stata abbordata, l'ha scortata fino al porto, ha osservato per qualche tempo come si muovevano i pirati, la nave è ancorata, è lo stesso messaggio del comandante, dice che sono ancorati, a lui ha paura addirittura che la nave si possa disancorare perché la catena si è arrugginita, è molto vecchia, non sono un tecnico. Sì, fra l'altro sono, dice, condizioni di vento particolarmente forti, quindi c'è anche il timore di questo aspetto, diciamo. Allora, il problema relativo alle due navi, le trattative si sono bloccate, sono trattative svolte direttamente dall'armatore, finora il governo è intervenuto solo per osservare e controllare dal mare quello che sta avvenendo. Il problema vero della pirateria lo sta dimostrando l'azione di Atalanta, che è questa missione dell'Unione Europea per il controllo dei mari, è che sul mare è estremamente difficile, data l'ampiezza, le dimensioni, riuscire a fare un controllo che sia anche una, come dire, un'azione preventiva di dissuasione degli abbordaggi. Quando e in che condizioni, sottosegretario, il governo potrebbe entrare nelle trattative per sbloccare una situazione che dura ormai da mesi e che sta mettendo a dura prova i nostri connazionali? Esattamente, quella della Caelin dura dalla fine di marzo, quella della D'Amato. Il governo interviene, però la trattativa è privata, siamo informatissimi della trattativa, ovviamente noi agiamo attraverso istituzioni che si muovono sul terreno e nella zona, abbiamo le informazioni che dobbiamo avere, normalmente noi diciamo in questi casi che è meglio parlarne il meno possibile ed agire. Io stesso, questa è una notizia ufficiale, l'ho anche detta, so che a Napoli questa procida, soprattutto da cui vengono molti di questi marinai, io sono stato a Mogadiscio, ho parlato con il governo somalo, ma soprattutto col capo della regione, di questo governo regionale, in cui ci sono i porti a cui approdano questi pirati o questi criminali, e il problema ovviamente è quello di avere le informazioni possibili, sempre tenendo conto che hanno in mano questi uomini, e quindi noi abbiamo deciso già una volta di non intervenire militarmente, perché mettiamo a rischio evidentemente la vita degli ostaggi, non solo quelli italiani ma anche quelli di altra nazionalità che erano a bordo di una nave. Ecco, perché si è speculato un po' in questi giorni, oggi insomma, sulla stampa, sulla possibilità, la presenza di questa, della Doria, della nostra nave, potrebbe essere un preludio a un possibile intervento militare. Lei lo esclude da questo punto di vista? Non lo so, diciamo che l'Andrea Doria va a verificare ancora la situazione, è in condizioni di operare, la decisione però è una decisione grave dal punto di vista politico e anche dal punto di vista umanitario, perché in queste operazioni le certezze non esistono mai, quindi il rischio della vita dei nostri connazionali diventa elevato. I francesi hanno tentato un po' di tempo fa un'operazione di questo tipo, sì. Ci sono stati dei morti anche fra gli ostaggi, quindi sì. Questa è una scelta che ogni governo fa responsabilmente, anche date le condizioni nelle quali si trova. E lei ha citato l'intervento francese, il blitz era diretto proprio contro Al-Qaeda nel Maghreb. C'è un'altra vicenda che riguarda direttamente questa organizzazione terroristica, che è quello del rapimento di Sandra Mariani lo scorso febbraio. La Maria Sandra Mariani, je suis l'italien qui a été enlevé le mercredi 2 février 2011 près de Jeannette en Algérie. Je suis toujours détenue par Al-Qaeda, Maghreb islamique, bataillon Tarek Ibn Ziyad, dirigé par Abdul Hamid Abu Zaid. Je demande à l'Arabie de bien vouloir publier cette communication. Merci. E questa invece è la voce della madre Fiammetta, che Riccardo Poli ha raggiunto ieri al telefono. Io credevo mi desse anche notizie a lei, perché io ho le notizie della Farnesina e telefono quasi tutti i giorni a mia nipote e alla mia figliola, sicché hanno detto di sta tranquilli, lei è viva, e cercano di fare, sono dietro a fare, cercare di trovarla, scovarla, non so mia io dove lei. Che idea mi sono fatta? Ma io non ne so neanche spiegare che idea mi sono fatta, guardi. La Farnesina vuole silenzio, perché qui se no c'è nuove richieste, capito? Il sindaco dice stia tranquilla, se c'è qualche notizia Farnesina telefona subito a me, sicché io vengo di persona a dirglielo, mi ha detto. Sicché ho fiducia tanto nel sindaco di San Casciano. Allora, sottosegretario, vicenda analoga per pochi aspetti e con tanti punti di differenza. Stiamo parlando di Al-Qaeda nel Maghreb, che è una formazione terroristica che si muove su un territorio vastissimo, ed è anche molto difficile ipotizzare dove la cittadina fiorentina si possa trovare adesso. Alcuni ipotizzano in Mali, e lei era stata rapita nel sud dell'Algeria appunto a febbraio. Su questa vicenda che cosa ci può dire? Diciamo, lei ha preso tre casi, uno tutto diverso dall'altro. Affrontiamo questo. Innanzitutto qui siamo nel pieno deserto algerino, quindi i confini, Mali, Centrafrica, Libia sono delle opinioni, cioè nel senso operiamo in un territorio che non è segnato da confini e non è controllato praticamente da nessuno. Qui abitano e sono molto diffuse delle tribù che vivevano regolarmente del deserto, delle carovane, eccetera. Quindi siamo di fronte anche a un fatto carattere sociale, e Al-Qaeda offre come dire un'alternativa, nel senso che offre di ritornare alle origini della tradizione, e quindi per queste tribù è un ritornare anche al passato, e quindi al passato splendore, alle passate attività, quindi è molto facile la penetrazione. Nessun luogo è lontano. Allora, ancora buona giornata, gentili ascoltatori. Gli ostaggi italiani nelle mani dei pirati somali, ne abbiamo parlato col sottosegretario Alfredo Mantica, ma anche Sandra Mariani, una donna fiorentina che dallo scorso febbraio è nelle mani di Al-Qaeda del Maghreb. Finiamo il ragionamento, sottosegretario. Sì, stavo dicendo, nel Maghreb c'è questa forte presenza di tribù tradizionali che sono ovviamente molto bravi a conoscere il deserto, e quindi, come dicevate giustamente voi, è impossibile praticamente sapere dove sono. Le operazioni vengono svolte attraverso forme di intelligence. Noi sappiamo che la signora sta bene, tra l'altro è una donna, e nella tradizione islamica una donna va anche rispettata, soprattutto in questo caso quasi considerata come un ospite, quindi a questo punto di vista c'è qualche tranquillità in più. Per il resto ovviamente è un problema estremamente delicato, qui diciamo siamo in una condizione totalmente diversa rispetto anche a quella nigeriana, qui siamo in una realtà dove probabilmente la signora che si era avventurata all'interno del deserto sotto Tamanrassette, quindi nella zona dei Tuareg, è stata probabilmente tradita dalla guida, o quantomeno certamente la guida che poi è stata rilasciata non ha, come dire, aiutato la nostra concittadina in questo viaggio nel deserto algerino. Ecco. Stiamo lavorando nel silenzio più totale, come giustamente dice la madre della signora. Voi sapete che alla Farnesina c'è un'unità di crisi che segue costantemente ognuna di queste azioni, che è costantemente informata e in contatto direttamente con le famiglie, e le famiglie sono sempre le prime ad essere informate se ci sono novità. Ci può dire, sottosegretario, se allo stato attuale sapete dove si trovi esattamente? No, nel senso che ovviamente si sa dove è stata presa, e date le dimensioni dello spazio e del tempo, voglio dire, si può immaginare qual è l'area, l'avete indicata anche voi, probabilmente in quell'incrocio tra Mali, Niger, Libia e Algeria, che è un po' la zona più pesante del deserto, ed è anche difficile operare, è una delle vie peraltro spesso percorse dai disperati che vengono verso la Libia, gli immigrati, che sono zone battute e conosciute da quelli che erano i vecchi conduttori delle carovane nel deserto, sono piste al di fuori di quelle che sono le guide, le zone turistiche o quelle conosciute o quelle normalmente percorse dai mezzi tradizionali, quindi è difficilissimo recuperare e sapere in quale zona, in quale tribù, qui oltretutto sono tribù, sono clan, sono anche, voglio dire, di grande mobilità nell'area del deserto, quindi tutto diventa più difficile, e l'unica speranza è quella di avere informazioni dirette per poter agganciare, come dire, i rapitori e avviare le trattative. L'ultima domanda, poi la lascio chiaramente al suo lavoro. Al-Qaeda nel Maghreb ha come obiettivo principe la richiesta di riscatti. Su questo punto ci può dire qualcosa? Beh, qui è una questione molto molto delicata, anche se quando voi avete citato il nostro ingegnere Molinari rapito in Nigeria, lì è il caso ancora particolare, facciamo riferimento a fenomeni di radicalismo islamico, lì è in atto una guerra quasi civile in Nigeria, tra le tribù dove ci sono i pozzi di petrolio e il governo centrale, e lì c'è un problema di ripartizione della ricchezza, quindi lì si capisce chiaramente anche, come dire, il movimento, l'azione, normalmente vengono presi persone che lavorano per grandi compagnie petrolifere o per società che operano in quel settore, è un tentativo ovviamente di rendere instabile la situazione e far abbandonare le compagnie petrolifere l'estrazione del petrolio in quelle zone, questo è il grande obiettivo strategico. Tornando, certo è un fatturato, nel caso della Nigeria ovviamente serve a rafforzare quella che è la struttura loro, di questi gruppi di liberazione. In altri casi, come quella della Somalia, è veramente una criminalità nel senso classico, cioè il denaro serve per arricchire i capi delle bande criminali. Io ogni tanto lo dico ridendo, nel senso di far capire le cose, cioè poi operano le grandi banche internazionali o i conti avvengono movimenti su quelle che sono le grandi banche, quindi voglio dire che è un grande lavorio anche di carattere finanziario. Assolutamente, fra l'altro pare che insomma il 30% del fatturato, per tornare in Somalia, dei pirati somali poi venga rimbalzato su conti europei o asiatici, però non mi ha detto nulla su un eventuale riscatto per quel che riguarda la Mariani. La questione è sempre molto delicata, vale... È di carattere generale, qualunque operazione sia. Se lei paga il riscatto, voglio dire, è chiaro che va ad aiutare e a diffondersi questo fenomeno di criminalità organizzata. Se non lo paga, ovviamente mette in discussione la vita dei propri concittadini, per gli armatori anche, voglio dire, il valore della nave, del carico, quindi sono anche danni economici. E su questo gioco tra il pagare o il dover pagare, cercare di pagare il meno possibile o di pagare in forme diverse da quello che è il pagamento, diciamo, tradizionale che uno immagina, che è il versamento di denari, si gioca questa amplissima e complicatissima trattativa, soprattutto con i pirati somali, che partono sempre chiedendo cifre spropositate, che sono molto spesso legate al valore della nave. Sì. e poi in qualche modo si arriva a trattative più articolate e più complesse che comunque incidono sempre sul valore, fino a qualche caso in cui per motivi anche di sicurezza loro gli ostaggi vengono abbandonati, cioè nel senso si rinuncia al ricatto economico che vive sulla testa degli ostaggi. Quindi sono situazioni estremamente difficili. Direi, alla sua domanda rispondo, alla parte più difficile è certamente quella della Somalia. Le altre due hanno un carattere, dico, politico, cioè nel senso hanno una logica che ovviamente noi non accettiamo, ma che comunque ha delle finalità politiche, e con queste la trattativa può essere diversa, perché qualche volta, oltre ai soldi, non so, chiedono la liberazione di qualche loro compagno d'arme che è stato magari arrestato, oppure vogliono dal governo il riconoscimento della loro azione, quindi la pubblicazione magari sui giornali internazionali dei loro comunicati. Quindi nel caso Algeria, nel caso Nigeria, è una trattativa complessa, ma che si svolge in un quadro politico. Quella della Somalia è delicatissima, perché siamo di fronte a dei criminali che fanno queste operazioni solo per avere denaro. Grazie. Allora, sottosegretario Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie anche a voi, arrivederci. Allora, Al-Qaeda nel Maghreb, chi è Al-Qaeda nel Maghreb, da chi è capitanata, quali sono i suoi membri, che cosa vogliono? Ascoltiamo una scheda. Al-Qaeda nel Maghreb è una formazione islamica sunnita estremista nata nel 2007 e che opera in tutta la regione del Sahel, tra Algeria, Mali, Mauritania e Niger. Nasce 4 anni fa dalle ceneri del gruppo salafita per la predicazione e il combattimento ed è guidata dall'emiro Abdelmalek Drekdal. Secondo Emily Hunt del Washington Institute for Near East Policy, già negli anni 90 Osama Bin Laden trasferì corposi fondi alle organizzazioni algerine, e in particolare al GSPC, che doveva sostituire il gruppo islamico armato. Le sue attività troppo sanguinarie e responsabili di centinaia di morti civili erano diventate controproducenti alla causa del rovesciamento del governo di Algeri. Molti leader fondatori del GSPC venivano direttamente dai campi di addestramento di Al-Qaeda in Afghanistan. Negli anni passati c'è stato uno scambio con combattenti in Iraq. La dichiarazione ufficiale di affiliazione è del 2006, in un video di Ayman al-Zawahiri, nuovo numero uno di Al-Qaeda, che consacra il legame. Dal 2007 in poi le attività di ACMI sono incessanti, prima con attentati a forze di polizia ed esercito algerino, poi con rapimenti di occidentali, business assai lucroso che permette di rifinanziarsi. L'escalation di rapimenti inizia nel 2009 con una coppia di austriaci rapita nel deserto tunisino al confine con l'Algeria, liberati poi in Mali in ottobre. Tra il dicembre 2008 e il gennaio 2009, l'ACMI rapisce nel Niger 2 diplomatici canadesi, uno dei quali inviato speciale dell'ONU, e 4 turisti europei, una coppia svizzera, una tedesca e un britannico. Nei mesi seguenti vengono tutti liberati, tranne il britannico Edwin Dyer, che viene ucciso. Nel 2010 viene sequestrato e pochi mesi dopo ucciso il francese Michel Germanot, dopo che i servizi francesi avevano tentato un blitz per liberarlo. Nel settembre dello stesso anno, 7 dipendenti delle società minerarie Areva e Satom, tra cui 5 francesi, un togolese e un malgascio, vengono sequestrati in Niger. Nel gennaio 2011, 2 francesi, Vincent Delory e Antoine Delecour, vengono rapiti in un ristorante di Niamey, in Niger. I 2 ostaggi vengono uccisi il giorno dopo, durante un tentativo di blitz per liberarli. Si stima che il riscatto pagato per il rilascio dei 32 ostaggi occidentali rapiti nel 2003 fu dai 5 ai 10 milioni di dollari. Con quei fondi i militanti si dotarono di missili, mitragliatori pesanti, mortai e sistemi satellitari. Difficile stimare su quanti uomini possa contare la struttura. C'è chi parla di almeno 300 miliziani ben addestrati. Gli esperti ritengono possibili estensioni degli attentati anche in Europa occidentale. Nel 2008 il leader Abdelmalek Drukdal, in un'intervista al New York Times, dichiarò: «I nostri obiettivi sono gli stessi di Al-Qaeda madre». E questa è Al-Qaeda nel Maghreb. Buongiorno a Dario Cristiani, ricercatore del King's College di Londra, che ha pubblicato un interessante documento su Al-Qaeda nel Maghreb con il quale cercheremo di capirne di più. Cristiani, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Ecco, allora, prima di inoltrarci con te nel Maghreb e nel Sahel, rispondo a un ascoltatore che ha scritto al 349-238-6666 lanciando una provocazione dicendo: pirati, deve andare una nave per vedere maggiori informazioni, i satelliti allora a cosa servono? Lucio da Arezzo. 2 punti. Il primo è che l'intelligence fatta sul territorio, i contatti fatti col territorio hanno sicuramente tutta un'altra valenza rispetto a un posizionamento satellitare. Secondo, io credo, ma è una mia personalissima opinione, che comunque la presenza nelle vicinanze di una nave militare in qualche modo abbia anche un effetto psicologico, se non di deterrenza, quantomeno di forte presenza nella zona. Ma torniamo ad Al-Qaeda nel Maghreb. Dario Cristiani, Al-Qaeda appunto nel Maghreb, l'affiliazione alla casa madre è solo appoggiarsi a un brand molto forte, molto noto nel mondo, o c'è in realtà qualche punto di contatto? I punti di contatto esistono chiaramente, però possiamo dire che da un punto di vista organizzativo i legami sono minimi, nel senso che dopo l'uccisione di Bin Laden, ad esempio, sono stati ritrovati dei documenti concernenti l'Algeria nel covo pakistano di Bin Laden. L'Algeria è sempre stato uno degli interessi principali dei gruppi jihadisti mondiali, però alla fine Al-Qaeda nel Maghreb utilizza il marchio, come è detto nella scheda dal 2007 si è rinominata in questo modo. Rapporti con altri gruppi islamisti a livello globale sono pochi, a livello africano sono un pochettino più forti. Ad esempio, si parlava in passato di contatti con i gruppi somali oppure con i gruppi islamisti operanti in Africa centrale. E poi uno degli sviluppi delle ultime settimane è questa più o meno presunta presenza di Al-Qaeda nel Maghreb anche in paesi diversi da quelli in cui solitamente abbiamo trovato la presenza di questo gruppo. Penso alla Nigeria, penso al Senegal, penso alla Guinea-Bissau, queste organizzazioni così. La cosa principale è voler utilizzare il marchio di Al-Qaeda per avere una legittimità maggiore, sia a livello di, come posso dire, geopolitica interna di gruppi islamisti, sia a livello di impatto sui paesi in cui il gruppo opera. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori. Nessun luogo lontano oggi parla di Al-Qaeda nel Maghreb, questa formazione estremista, questo gruppo di terroristi. Stiamo cercando di capirne di più su di loro, sulle loro azioni. Mi ricordo appunto responsabile del rapimento di Sandra Mariani nel febbraio di quest'anno, e stiamo cercando di fare una radiografia di questo gruppo grazie a Dario Cristiani, che è ricercatore al King's College di Londra. Cristiani, stavamo dicendo della forza del brand, no, di Al-Qaeda, che in qualche modo, insomma, è una bella etichetta che un gruppo terroristico di, si dice, un 300 membri si appiccica sulla spalla, insomma, si dà una certa autorevolezza. Concorda lei sul numero? Le stime dicono 200-300, in realtà non, come si fa a capire? Sì, qua stiamo parlando di un partito politico, quindi non ci stanno tessere di affiliazione o quant'altro. Le ultime stime dicono qualcosa come 300-400 affiliati, però c'è un particolare interessante sull'organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb, cioè che molto spesso Al-Qaeda nel Maghreb opera insieme a gruppi di criminali locali, piccole bande dediti al narcotraffico, al traffico di esseri umani e ai rapimenti. Queste bande chiaramente non hanno, come possiamo dire, degli obiettivi politici, ma sono bande di criminali molto semplici. Allora, è una sorta di, qualcuno ha detto, terrorismo freelance o piccola catena industriale terrorista. Questi gruppi agiscono per conto di Al-Qaeda nel Maghreb, danno gli ostaggi oppure trovano armi, munizioni per il gruppo in cambio di una somma economica, e poi chiaramente l'ostaggio oppure attività più di tipo politico viene e il gruppo, possiamo dire, centrale di Al-Qaeda nel Maghreb, che opera tra Algeria, Mali e Niger, che si occupa di queste questioni. Quindi direi 300-400 al momento è una stima abbastanza realistica, però ci sono anche gruppi minori non legati al terrorismo, ma semplicemente gruppi criminali che operano in combutta con Al-Qaeda nel Maghreb. Ecco, trovo estremamente interessante il punto di vista che lei ci offre, no? Quando parla di questi freelance, di questi collaboratori, quasi fossero dei cocopro di questa industria, no? Dedita comunque al business. Perché giustamente ricordava lei, mentre, come dire, Al-Qaeda madre, chiamiamola così, ha delle rivendicazioni politiche molto forti, no? Anti-americane, anti-occidentali, anti-imperialiste, eccetera. Al-Qaeda nel Maghreb non ha una vocazione jihadista forte, ma da sempre, come dire, tranne forse, no, nei Prodomi all'inizio in Algeria, come dire, si è svincolata dalle rivendicazioni politiche per mirare a fare denaro. Però trovo molto interessante la visione, come dire, economica, perché ci spiega magari meglio come sia possibile che una formazione fatta, diceva lei, di 300-400 membri riesca a tenere in scacco eserciti di 3-4 paesi. Noi stiamo parlando di Algeria, stiamo parlando di Mauritania, di Mali e di Niger. Io fra l'altro ricordo che in Mauritania nel 2007 è stata, dopo svariati eventi di rapimenti e uccisioni, la famosa corsa alla Parigi-Dakar ha dovuto traslocare proprio per ragioni di sicurezza. E come fa un gruppo appunto di 400 persone a creare il terrore in una gigantesca area desertica in cui non è neanche facilissimo muoversi, Cristiani? Beh, come diceva prima il sottosegretario Mantica, stiamo parlando di un'area innanzitutto enorme, dove la conoscenza del territorio è fondamentale, quindi stiamo parlando di gruppi che operano in questo territorio da anni, molto spesso gli appartenenti a questa organizzazione sono nati in queste aree. Poi stiamo parlando di una striscia, chiamiamola geopolitica, quella saheliana, in cui ci sono stati, cui capacità di controllo del territorio sono minime. Inoltre il conflitto libico ha esasperato i problemi di sicurezza, ad esempio del Niger. Stiamo parlando di paesi poverissimi, dove le forze armate sono poco addestrate, molto spesso numericamente deboli. Poi stiamo parlando pur sempre di realtà dove i legami tribali molto spesso sono più forti di quelli del legame, come possiamo dire, verticale fra operatori di sicurezza dello Stato, quindi è facile che ci siano, come possiamo dire, rapporti, non voglio dire di ambiguità, però in questi paesi il livello di corruzione in genere è molto alto, quindi è probabile che ci sia anche questo elemento da tenere in conto sull'incapacità di questi paesi di attaccare questo gruppo in maniera consona, anche se c'è da dire che nelle ultime settimane, soprattutto in Mauritania e in Mali, c'è stato un cambiamento di rotta da questo punto di vista, visto che gli eserciti dei due paesi sono riusciti in maniera più o meno forte a bloccare molti appartenenti a questa organizzazione. Sì, fra l'altro. La interrompo perché fra l'altro in Mali, come dire, c'è stata anche una ricaduta disastrosa, rovinosa sull'economia, perché il turismo è crollato e il governo di Bamako ha promesso sforzi per svariati milioni di euro per rinsaldare le truppe, appunto, soprattutto a nord del paese, e permettere un ritorno del turismo che chiaramente si era, come dire, evaporato letteralmente negli ultimi anni, perché appunto il problema delle scorribande di questi membri d'Al-Qaeda era forte. Prego, Cristiani. In Mali la questione legata al rapporto tra terrorismo e industria del turismo è fortissima ed è molto sentita. Stessi problemi ci sono in Mauritania, anche perché in queste aree il turismo era per lo più europeo. Quindi nel momento in cui ci sono questi rapimenti, le ultime stime che ho a disposizione dicono che solo dal 2008 al 2010 i soldi guadagnati da Al-Qaeda nel Maghreb con i rapimenti sono più o meno nell'ottica di 25 milioni di dollari. Sto parlando di cifre enormi. Al-Qaeda nel Maghreb, paradossalmente, è più ricca di Al-Qaeda centrale al momento. Questi paesi adesso, sotto la guida algerina, stanno cercando di creare una sorta di, come possiamo dire, controllo congiunto del territorio saheliano, sì. Algeria, Mauritania, Mali, Niger. Poi stiamo parlando di un'area geopolitica in cui molto spesso la collaborazione fra stati è complicata da questioni storiche, da sì, questioni di confini, certo, certo. Sinteticamente, poi la lascio, Cristiani, al suo lavoro. Esiste una ricetta? Qual è la formula per poter vincere un'organizzazione così agile, così flessibile, così veloce nel muoversi? Loro utilizzano pick-up, conoscono molto bene il deserto, hanno armi leggere, abbiamo sentito anche armi un po' più pesanti come i mortai, ma voglio dire, non immaginiamoci carri armati. Sono piccoli pick-up, fucili Kalashnikov AK-47, lanciarazzi RPG nelle migliori delle ipotesi, quindi sono piccole unità molto veloci che conoscono bene il territorio. Come si sconfigge il fenomeno? Come si possono afferrare questi fantasmi del deserto? Ah, innanzitutto io direi che ci deve essere uno sforzo da parte dei di alcuni attori esterni, non tanto nel supportare militarmente questi paesi, ma in quanto più in generale di rafforzarne le capacità di governance. Poi il conflitto in Libia sta creando dei problemi di stabilità in questi paesi, sia per il ritorno dei profughi che per le questioni di sicurezza alimentare e soprattutto per l'immissione di enormi quantità di armi provenienti dagli arsenali libici. Quindi in questo senso probabilmente la comunità internazionale dovrebbe essere un attimino più presente nell'area. Al-Qaeda nel Maghreb, tra le conseguenze che ha avuto il rebranding dell'organizzazione, ha avuto quella che americani e francesi iniziassero a essere un pochettino più, i francesi da sempre lo sono, però gli americani ad esempio hanno iniziato ad avere un interesse un poco più forte per la regione solamente negli ultimi 5-6 anni. Sì. Quindi in questo senso migliorare la governance e poi chiaramente cercare anche, soprattutto con i gruppi più politicizzati dell'organizzazione, un minimo di riconciliazione basandosi ad esempio sull'esempio algerino degli ultimi anni, certo, dopo la guerra civile. Certo, grazie. Allora, Dario Cristiani, ricercatore al King's College di Londra e autore di questa pubblicazione su Al-Qaeda nel Maghreb, che ci ha aiutato a capire un po' meglio di che cosa stessimo parlando. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E torniamo in Siria perché il comitato che raggruppa alcuni attivisti da Beirut fa sapere che secondo alcune stime nella feroce repressione siriana messa in atto dall'Assad vi sarebbe un civile ucciso ogni 50 minuti. Questo proprio dopo che ieri il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha decretato stop alle violenze. Vedremo che seguito avrà. E poi nel vicino Libano, dove questa mattina a Beirut, in un quartiere cristiano a nord della città, poco distante dal centro, due attentatori sono morti mentre tentavano di preparare un ordigno esplosivo. E poi in Pakistan, due attentati esplosivi sono avvenuti oggi a poca distanza l'uno dall'altro a Peshawar, nella parte nord-occidentale del paese, causando 6 vittime, fra cui un bambino, e almeno 23 feriti, oltre alla morte di una kamikaze di appena 15 anni. Lo riferiscono le TV a Islamabad. E poi nel vicino Afghanistan, dove una bicicletta bomba nel sud ha causato un morto e alcuni feriti. L'ordigno è saltato in area oggi nella provincia meridionale afghana di Zabul, causando la morte appunto di una persona e il ferimento di altre 24, lo hanno riferito fonti ufficiali della provincia. L'esplosivo era collocato su una bicicletta parcheggiata nella zona. Ancora in Afghanistan il bilancio è sempre più pesante dalle forze della coalizione internazionale. In un comunicato diffuso a Kabul, l'ISAF non indica la nazionalità delle vittime, ma dice che a causa di un IED, cioè un ordigno rudimentale, sono morti 5 soldati questa mattina. Secondo un calcolo non ufficiale sarebbero 388 dall'inizio dell'anno e 53 dal 1 agosto 2011. E poi velocissimi in Yemen, dove il presidente Ali Abdullah Saleh ha annunciato che si rimetterà al piano elaborato dai paesi del Golfo per una transizione pacifica, quindi finalmente dopo mesi di braccio di ferro. Fra l'altro Saleh si trova a Riyadh, è stato ferito durante un assalto al suo palazzo a Sana'a, apre all'opposizione, vedremo che cosa accadrà. E infine di nuovo in Afghanistan, perché i talebani hanno rivendicato il fatto che l'attentatore all'elicottero da trasporto di truppe americano è ancora vivo e quindi la reazione della NATO non avrebbe dato frutti. Non mi resta che ringraziare voi, gentili ascoltatori, per essere stati con noi. Riccardo Poli in redazione, Mauro De Angeli alla parte tecnica. Noi ci risentiamo domani alle 13:15 con Nessun Luogo Lontano.